Oggi celebriamo la festa della cattedra di Pietro, cioè la festa del Santo Padre in quanto maestro di fede. La cattedra è il luogo dell'insegnamento. Da dove deriva questo? Certamente se noi guardiamo al Papa oggi o al Papato oggi, è rivestito di mille variazioni che si sono succedute durante i secoli, durante i millenni. È per questo che tante volte un Papa dopo l'altro cambiano anche alcune cose della loro figura esterna, ma il cuore di tutto resta sempre quello che ha detto Gesù nel Vangelo. Tu sei Pietro e su questa roccia, su questa pietra, io costruirò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. E poi bellissima anche l'altra frase: Simone, io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Cari amici, lo sappiamo tutti che i vari papi sono considerati non solo in base a queste parole di Gesù, ma in base anche a delle opinioni della gente. Se noi vediamo quanto è attaccato Papa Francesco, anche all'interno della Chiesa, anche da prelati, anche da vescovi, e io sto sempre col Papa, perché queste parole del Vangelo sono il fondamento. A te, Simon Pietro, questa frase di fede, che tu sei il Cristo, il Figlio, non ti è venuta in mente dalla tua intelligenza. Non è stata la carne e il sangue a rivelartelo, ma il Padre mio che è nei cieli. Per questo tu avrai le chiavi. Le chiavi è un gesto simbolico per dire: se lui chiude, resta chiuso, se lui apre, resta aperto. Tu hai, diciamo, il potere di gestire la Chiesa da un punto di vista della fede. C'è da dire poche parole, amici. Stiamo attenti ad abbandonare il Santo Padre per seguire altri profeti. Io li chiamo falsi profeti, perché a loro non è stata detta questa parola di Gesù: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. È stata detta solamente al Papa. Quando parlo così qualcuno mi dice: ma anche i papi nella storia hanno sbagliato. Oh, certamente. Però io ho studiato nella storia della Chiesa che anche alcuni papi che hanno fatto veramente tanto male moralmente a se stessi e alla Chiesa, che hanno avuto anche atteggiamenti personali sbagliatissimi, però, e questo è interessante, non hanno mai promulgato dei documenti contro la fede. Magari personalmente non sono stati all'altezza, personalmente sono stati dei peccatori e se la vedranno col Signore, ma in quanto cattedra di Pietro non hanno mai emesso dei documenti contro il Vangelo, contro la fede. È interessante questo, amici. Per questo la Chiesa festeggia la cattedra di Pietro. Su questa pietra edificherò la mia chiesa. Per questo, se mi posso permettere, vi suggerirei: leggete quello o ascoltate. Oggi ci sono tanti strumenti, audio, video, quello che il Papa dice direttamente lui. E non prendiamo quello che hanno cucinato gli altri giornalisti. Oggi è possibile con internet andare a verificare direttamente, in particolare tra tutto quello che il Santo Padre dice nel suo Magistero alla guida della Chiesa, io suggerisco l'udienza del mercoledì e suggerisco le grandi prediche che fa in determinate circostanze, in determinate feste. Io poi personalmente imparo tantissimo quando lui parla ai sacerdoti, per esempio ai sacerdoti della Chiesa di Roma che lui riunisce annualmente, oppure io ho avuto la fortuna con 30 miei compagni di messa di partecipare a un'udienza privata che lui ha riservato per i nostri 50 anni di sacerdozio. Veramente per un'ora e mezza ci ha intrattenuto rispondendo alle nostre domande che facevamo lì sul momento, senza avergliele consegnate prima. Veramente senti che lo Spirito Santo, che lo Spirito di Gesù è con il Papa.